amici persi in vano fogli, come schegge spente. Ricordo giorni vuoti e notti zitte di luna che bianca. Sembrano rinunce vuote nate, rite rosso e suonano nelle lunghe dita, vedono ciò che dietro signorano. Tornare indietro non so se è male, la pancia è piena e mi colpiscono sorrisi strani o le parole che corrono e mi stordiscono. Il cinismo preventivo mi agito sulla mia pelle come lo stomaco si tinge. Un po' di barba, un po' di niente. Di contorno lupi e attenzioni scellerate e poi magari aiutano e bruciano i